Radio 24. Libera la voglia di fare. Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa. Stringiamoci a coorte, l'imposta è più forte e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Di Carlo Alberto Carnevale Maffè, Oscar Giannino, Mario Seminerio e Renato Cifarelli. Buongiorno cari ascoltatori di Radio 24, 10 primi e 8 secondi in diretta dallo studio di Milano, una Milano assolatissima anche per la visita del Papa, e quindi la pioggia è scomparsa. Il Urbis raggio di sole. E Torbis, caro Oscar, sì, te lo dico io. Dove la Urbis non so se è la nostra, magari è Monza, dico bene, capitale. Antica. Parco di Monza è quello del dove si tiene oggi. Comunque c'erano un giro un sacco di postini tutti gialli stamattina, non so bene, dovevo consigliare qualche telegramma, non so. Postini, vabbè, sì. Adesso non iniziare. Beh, me la son persa questa. No, ma non iniziare a fare quello. Oggi il compleanno di Mina, ragazzi. Quindi auguri a una delle sante vere laiche del nostro paese, uno dei pochi simboli unificanti del nostro paese, che vive di ritrazione, come i veri grandi simboli fanno, cioè economizzano il valore del sé perché sono un valore in sé per sé. Questo è, guardate, la scarsità marginale, strategia della scarsità marginale. Scusate, come vedete anche Mina in questo è stata una accurata amministratrice, per così dire. Non è affatto vero che gli artisti sono lontani dalla comprensione di alcuni meccanismi fondamentali. Quando si ha un talento, non dissiparlo e ben amministrarlo, questa è la cosa fondamentale. Ma vi diciamo subito che cosa in questa assolata giornata papista a Milano può valere la pena di telefonarci all'800 24 0024, come sapete, mentre per gli sms 34 92 38 6666. Sono in studio con me gli autorevolissimi, molto più di più me, degni di questo, molto di più, e molto. Quindi Mario Seminerio e Carlo Alberto Carnevale Maffè. Ecco, ci raggiungerà poi il pilastro imprenditoriale del gruppo Renato Cifarelli più tardi. Ma di cosa parliamo oggi? Allora, abbiamo due grandi blocchi dopo il consueto inizio della trasmissione con la rubrica di Mario su a che punto siamo con i numeri, la crisi, eccetera, eccetera. E il primo grande blocco sarà dedicato con lo spunto di un libro che io veramente vi sottolineo, vale la pena di leggere. Abbiamo i due autori di questo libro, è un libro che esce martedì nelle edicole, ed è dedicato al tema delle banche popolari, e ne parleremo dalle 11 alle 11 e mezza dalle 10 e mezza alle 11 con loro. Sono Andrea Greco di Repubblica e Franco Vanni di Repubblica, e in questo libro secondo me trovate, soprattutto se siete tra quei 500-600 mila azionisti che hanno in mano titoli illiquidi nel nostro paese, sommando quelli di tutte le banche popolari e così via, non quotate, eccetera, eccetera. Ecco, se siete in quel novero, è il caso di leggere con particolare interesse questo libro che si intitola Banche Impopolari, inchiesta sul credito popolare e il tradimento dei risparmiatori, per Mondadori, Andrea Greco, Franco Vanni. Parleremo soprattutto a che punto sta la trattativa con la Direzione Generale Concorrenza della Commissione Europea per Vicenza e Verona, ma non solo di quello. Se siete azionisti di quelle banche, avete accettato il ristoro oppure no, chiamateci 800 24 0024. Dopo il Generale Radio, come ovvio e giusto, visto che è il 60° anniversario e c'è il meeting a Roma del europeo per l'anniversario del Trattato di Roma, una riflessione anche su questo. Nasce l'Europa a centri concentrici. Abbiamo preso il titolo, e quindi sarà con noi l'autore di questo altro libro che esce, che vale la pena, e il titolo del suo libro è identificativo della scelta, del più importante che si fa, e vedremo se la si fa nel documento finale del Vertice di Roma. E il titolo infatti si chiama Sdoppiamento, una prospettiva nuova per l'Europa. Ci interrogheremo su questa Europa più cerchi concentrici con Sergio Fabbrini, che è appunto l'autore del libro che è già uscito e io vi consiglio di leggere. Al di là di questo, cosa segnalare intanto ai nostri ascoltatori, Mario? Ma dunque, nella settimana dello sdegno nazional popolare per Dijsselbloem, diciamo, che ha suscitato veramente uno sdegno patriottico degno di migliore causa, che peraltro tu, Oscar, hai mostrato e dimostrato che... Anche punto... di miglior traduzione, forse. Esatto, di miglior traduzione, sì. Il problema è non aggrapparsi, come dire, ai rilanci di agenzia e cercare di fare un piccolo sforzo aggiuntivo, pur con tutti i meriti delle agenzie di stampa, diciamo. No, a me ha colpito il fatto che abbiamo saputo ieri l'altro che il procuratore generale di Cassazione, che è titolare dell'azione disciplinare sui magistrati assieme al ministro della giustizia, ha aperto un fascicolo su Anna Finocchiaro, esponente del PD, che è tra l'altro un magistrato in aspettativa da 28 anni. Ma perché allora il procuratore generale ha aperto un fascicolo? Perché vuole capire se la posizione della Finocchiaro viola il decreto legislativo 109 del 2006 che vieta la partecipazione ai partiti politici e il coinvolgimento nelle attività di centri politici che possono condizionare l'esercizio delle funzioni o compromettere l'immagine di un magistrato. Ora, questa è la nota querelle di Michele Emiliano. Cioè, se tu sei un magistrato in aspettativa, eletto in un'assemblea elettiva, Senato, Camera, eccetera, il problema non si pone. Però si pone se hai la tessera di un partito. Ora, a me la cosa che fa impazzire, al di là della criticità di tutta questa pletora di magistrati in politica, che è una cosa di cui bisognerebbe parlare un bel giorno, mi fa morire il fatto che c'è il procuratore generale di Cassazione, diciamo, ha questa iscrizione in queste indagini a 11 anni dopo questo decreto legislativo di una persona che l'ultima volta che ha esercitato le funzioni di magistrato, diciamo, molti di noi erano ancora bambini. Quindi, cioè, è un paese che ha un ritardo abbastanza strutturale e genetico. Questa è una cosa che mi ha fatto abbastanza sorridere, diciamo, ecco. Io invece devo parlare bene di Esselunga, perché dopo la morte di Caprotti i numeri che sono usciti ieri mi fanno pensare che anche persone con un carattere, una personalità fortissima come Bernardone e Caprotti sanno lasciare in eredità aziende managerializzate e ben gestite. Anche ieri... se in teoria lui aveva detto vendete. Si è detto vendete, ma per vendere e vendere bene deve avere un'azienda che sa andare avanti da sola. Ricordo i tempi di Bill Gates, di Steve Jobs, che diceva Apple senza di lui non potrà andare avanti. Bene, è più che raddoppiato il valore di borsa di Apple dall'epoca. Ieri i numeri sono interessantissimi, anche perché qui Esselunga fa più 3% di fatturato, anche se ha fatto prezzi meno 1%, e ha fatto in realtà clienti più 4,4. Ha aumentato il numero di punti vendita, ha aumentato il numero di persone assunte, sta puntando fortissimamente sul click e vai, cioè sull'e-commerce misto, quindi ordina online, ritira in negozio. Ancora una volta, secondo me, dà il senso che anche in un business maturo, dove magari i francesi vanno maluccio, dove vanno ancora le catene a diciamo discount, ma dove Esselunga, gioiello nella corona, brilla ancora, c'è spazio per inventare e reinventare il mestiere. Un bel segnale, un onore postumo al grande Bernardone Caprotti. Io, a proposito di onori, ci tengo solo personalmente a ricordare a chi in ascolto, oltre che ad abbracciare i suoi cari, una persona che è scomparsa e che ho conosciuto, ho avuto l'onore di essergli amico, e che ho considerato una persona di grande valore non solo perché ha motivato generazioni intere di studenti della cattedra con una maniera di insegnare che vi garantisco qualunque studente vi potrà raccontare come molto importante nel corso della sua formazione di vita, ma perché a mia opinione mostrava di avere in tutto quello che faceva, non solo nella professione di insegnamento universitaria, una stoffa civile di grande italiano. Io ho voluto molto bene e serberò nel cuore, come tanti altri, Giacomo Vaciago, come un grande italiano europeo, di quelli con dote umane, professionali e civili, che è sempre più raro trovare in Italia. Grazie Giacomo per tutto quello che hai fatto. Della belva. Ricordati che devi morire! sì, no, mo me lo segni proprio, non vi preoccupate. Ecco, no, non inizia la diretta della Messa del Papa questa cosa, beh sì, con Mario facciamo il punto della settimana in Italia e anche fuori, c'è anche qualche evento, però cominciamo dall'Italia, Mario. Allora, mi ha colpito una cosa di cui già ero a conoscenza. Ieri sul sito lavoce.info è uscito un post di Claudio Virno che ha mostrato praticamente che la famosa flessibilità, la clausola degli investimenti che l'Italia ha chiesto e ottenuto lo scorso anno e non solo, quindi per il cofinanziamento dei fondi strutturali del piano Juncker e di un'altra iniziativa di connessione digitale, ebbene non abbiamo fatto quello che dovevamo fare per avere questa flessibilità, cioè i nostri investimenti pubblici nei fondi europei sono stati all'incirca meno del 40% del target che ci era stato fissato dalla Commissione europea. Ora, io so che magari molti di voi diranno, vabbè, che sta roba che vuol dire, che mi frega, eccetera. Vi frega? Cosa vuol dire? Che noi abbiamo avuto la possibilità di fare più deficit a patto di fare più investimenti pubblici e non lo abbiamo fatto. I motivi per i quali non lo abbiamo fatto, cioè, in compenso abbiamo fatto tutto quello che dobbiamo fare di spese correnti, esatto, voglio solo ricordarlo, esatto. Non è che non abbiamo fatto meno deficit, no. Esatto, abbiamo fatto più deficit che è finito robustamente in spesa corrente, sì, tra cui gli 80 euro certo, che è spesa corrente e non riduzione delle imposte, ve lo diremo fino alla nausea, e quindi abbiamo avuto, adesso quali sono le cause di questo segnare il passo sull'investimento pubblico? Non lo so, alcuni danno la colpa al nuovo codice degli appalti, che di fatto ha imballato, come dire, l'attività, macchina, la macchina, eccetera. E hanno ragione, dal mio punto di vista. Ma può essere, perché anch'io ho letto delle storie abbastanza horror che sono caratteristiche di questo paese. Però il punto vero è che, cioè, noi, questi sono compiti a casa. Certo. Cioè l'esigenza di riuscire a fare la delivery, cioè di produrre investimenti pubblici per i quali ci era stata data flessibilità, cioè la possibilità di fare deficit. E siccome sono tre anni, almeno tre anni, ma non solo tre anni, diciamo è dal governo Renzi e dal suo trascinamento postumo che noi sentiamo politici che sono presenti nel Parlamento italiano, in quello europeo, che la menano su questa cosa, togliamo dal deficit PIL gli investimenti pubblici, a parte che c'è gente che definirebbe investimento pubblico la spesa corrente, per cui in Europa pare che non si fidino di noi per questo motivo. Questo è il problema. Non altro. Non sono capaci neanche di fare keynesiani, è questo che stai dicendo. Ma esatto, sostanzialmente. Allora io vorrei che fossero keynesiani, lo vorrei proprio, però ne fanno. Quindi bisogna capire anche questa cosa, non solo. Se la Commissione europea decidesse di usare, ma non dico la linea dura, ma un'interpretazione letterale delle norme, la maggiore flessibilità che ci è stata concessa, finalizzata agli investimenti, che non è andata a buon fine, necessiterebbe la restituzione. La restituzione. C'è un provocatore. Che si sommerebbe. No, ho capito. Dura lex, sed lex. Però, siccome siamo qua in mezzo a patrioti che ci dicono che bisogna scomputare gli investimenti dal deficit, che non siamo padroni a casa nostra, eccetera, come il, ad esempio, mirabile esempio della pedemontana veneta illustra, no? Dove pubblico e privato si incontrano e fanno delle devastazioni senza precedenti, allora forse conviene riflettere su questo punto. Poi, altra cosa che è stata veramente meravigliosa, l'abolizione dei voucher. Io non voglio fare la solita guerra di religione perché non me ne può fregare di meno. Dico solo che è uscita questa cosa molto kafkiana, a parte un decreto, no? La necessità e urgenza di abolire il concetto di lavoro accessorio, che però va in regime transitorio fino alla fine dell'anno, cioè per altri 9 mesi. Necessità e urgenza con un regime transitorio, non solo. Avendo abolito il concetto di lavoro accessorio, chi impiega un lavoratore a voucher non è certo che sia in regola. Ma non solo. Gli ispettori che si recano sui posti di lavoro e trovano violazioni nell'utilizzo di uno strumento che è stato abolito e che è in regime di prorogatio, non possono sanzionare, perché la parte relativa alle sanzioni è stata eliminata. Allora, il ministro Poletti ha emesso non una circolare, ma un parere, un comunicato, un tweet, non si sa bene cosa abbia emesso, dicendo Per il periodo transitorio vale la norma previgente, il che è sinceramente meraviglioso, perché abbiamo un mutante che è il lavoratore in grigio, che utilizza il voucher, non potrebbe farlo, il suo datore di lavoro forse viola le norme, forse no. È un paese meraviglioso, sono tutte cose dove noi ci mettiamo in un angolo da soli. Dopodiché il nostro proverbiale vittimismo ci porta a dare la colpa a qualcuno che viene da fuori. Approssimazione al potere si chiama. Esatto, sì sì. No, infatti non era l'immaginazione, proprio, cioè, l'approssimazione, il pressapochismo. L'approssimazione al potere. Io aggiungo solo come elemento di riflessione questo, cari ascoltatori. Trovate sui giornali in questi giorni un crescendo di articoli che vengono, tra virgolette, ispirati dall'ex presidente del Consiglio, come Johnson. L'informazione ha anche come modalità quella di presentarvi, no, le indiscrezioni politiche che vengono autorevolmente promosse. Tra queste, ieri per esempio c'erano diversi giornali, soprattutto Repubblica, che dicevano come il Presidente del Consiglio lanci un messaggio chiarissimo a Gentiloni, che si sintetizza in: oh ragazzi, non ne voglio, testuale era, non ne voglio neanche sentire parlare di clausola fiscale nella prossima legge di stabilità, e ricordatevelo, visto che tra pochissimo dovete scrivere il DEF, non se ne parla neanche. E l'aggiunta tra virgolette era: inventatevi quel che volete, ma non se ne parla neanche, oltre ad alcune considerazioni sul fatto che bisogna mandare a casa i tecnici, Calenda che si è montato la testa e così via. Allora, la riflessione che faccio io, e la faccio anche qui, privo deliberatamente di alcuna polemica, è una questione fattuale. Chi ha messo le clausole fiscali per non scegliere con misure strutturali il modo di intervenire sugli andamenti della spesa? Cioè lui, l'ex presidente del Consiglio. Mi risulta un po' dura da buttare giù che dica adesso ad altri: la violate voi la clausola, dopo che l'ha scritta e l'ha messa lui. Capite? Fossi in Gentiloni, che ha una maestria signorile nel non replicare alla lunga lista di provocazioni che gli arrivano tutti i giorni dai giornali, ma fossi in Gentiloni gli risponderei seccamente: oh, tu parli? Tu osi parlare sulla clausola fiscale? Guardate, ci sono questioni di sostanza e di forma. La politica può usare le forme a volte della commedia, a volte della tragedia, a volte della commedia dell'arte, di De Luca che chiama chiatona quell'altra, eccetera, eccetera. Il noto bodybuilder e Adone De Luca ha, diciamo, detto questo. Okay. Però poi la sostanza è la sostanza. Chi mette le clausole di salvaguardia non può additare all'Europa altri come violatori. Cioè, questo è un punto di fondo, perché vuol dire che manca l'etica dei conti pubblici a questo punto. C'è una delle questioni un po' fondamentali, se vuoi fare lo statista. Ma posso poi manifestare tutta la mia solidarietà al ministro Padoan, che sono 3 anni che fornisce copertura tecnocratica e politica a Matteo Renzi, e che rischia di finire, diciamo, ingloriosamente preso a pesci in faccia. Persino questo povero uomo che è riuscito a fare questo giro di valzer nelle poltrone delle partecipate pubbliche, dicendo che la selezione è avvenuta mediante l'ausilio, la partecipazione degli Headhunter, i famosi cacciatori di foglie di fico, non di teste. Oppure i cacciatori di teste ci si rivolge nelle scelte pubbliche per eliminare le teste buone talvolta. Ma sì, ma per avere una copertura. Però, ministro Padoan, io sono solidale con lei. Lei è un vero civil servant. Però, sai cos'è, Carlo, che ci dicono? Te, ma anche a me, separatamente e con diversi, tu più alto e più basso livello di autorevolezza, che dicendo così noi mostriamo di non capire che tutti gli altri sono peggio, che Renzi tutto sommato è una risorsa, avrà un caratteraccio, ma eccetera eccetera. Io argomento che rispondo semplicemente, dico, non è il mio mestiere fare scegliere il minore dei mali graduali. I giudizi sono, per quello che mi riguarda, fattuali rispetto ai comportamenti e alle responsabilità. Chi governa le responsabilità. Ma tu come rispondi a chi ti obietta così? Ma per quanto mi riguarda, sì, anch'io, guarda che io ho sempre ritenuto che Renzi fosse il meno peggiore e anche il meno lunare per guidare questo paese, che diciamo è una nave in un mare in tempesta, sta imbarcando acqua in una maniera inquietante. Però in tutta franchezza, adesso poi mi accuseranno di grave inimicizia o quant'altro, io noto che se andiamo a vedere tutte le misure di politica economica degli ultimi 3 anni che stanno venendo aggredite dalla realtà, non sono più così sicuro che Renzi sia il meno peggiore, o forse è diversamente peggiore. Quindi adesso naturalmente arriveranno i messaggi che sono grillino, eccetera, eccetera. Sai, più o meno sono 15 anni che mi rompono le palle. Prima ero berlusconiano, poi ero finiano, poi ero comunista, poi ero liberista, affamatore di popoli, poi renziano, poi grillino. Alla fine, sai, imparo anche a divertirmi di queste cose. Io sempre rimasto milanista, te lo voglio precisare, giusto? Ma io sempre rimasto interista fino al triplete, dopo sono andato in pensione. Bene, diciamo, su questa battuta, non solo tu. Su questa battuta io devo fare chiudere, perché avete finito con una delle grandi, un grandissimo scambio di questa settimana che mi è piaciuto tantissimo, quando, a proposito dei dubbi di una certa fondatezza del regime di anticipi che dalla Cina arrivano in vista della chiusura di un'operazione Milano, non si capisce? C'è un certo problema di liquidità. Pier Silvio Berlusconi, rivolgendosi ai tifosi dell'Inter, ha avuto una battuta fulmicotonica dicendo: sentite, a parte l'ironia, fino a questo momento tutti gli anticipi che ha incassato mio padre sono un multiplo di tutti i soldi che voi avete. Infatti. Così che si fa, ragazzi. Ma chapeau. E quindi da questo punto di vista vedremo come finirà, perché anche ha la sua importanza come modello, speriamo, di trasformazione dei fondamentali del calcio italiano. Anche questo, qualche volta facciamo una puntata intera. Poi, bisogna trovare qualcuno con l'anello al naso che continua a mandarti caparre, questo intendi, caro Alberto? Ha già pronto il business case study per le sue azioni. Sì, devo dirti che avrei un modo io, forse, passando per le Isole Vergini, da dove viene metà sempre della caparra, forse un'idea ce l'avrei. Torniamo tra un minuto. Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte. Conti della Belva. Eccoci qui, tornati in studio, 10:35 primi e 46 secondi. Tema, un utilissimo libro che tenta di concentrare nelle sue 200 paginette, un po' meno, tutto quel che c'è da sapere e che difficilmente trovate davvero in questi particolari, sfogliando la stampa italiana, sia quella generalista soprattutto, ma anche quella specialistica, su radici, evoluzione, esplosione dei guai, racconto delle connivenze, coperture da parte dei regolatori, banchieri che compravano dalla Banca d'Italia alla Guardia di Finanza ai giudici che volevano indagare, che riguarda il fenomeno delle banche popolari italiane, quello su cui il governo Renzi interviene con una riforma che all'inizio lascia incredulo il sistema, uno dei tre pilastri del mondo bancario italiano, dicendo: ma questo davvero pensa che lui interviene? Invece lui la fa per decreto. Questo crea una serie di effetti a catena, perché hanno 2 anni per le 10 maggiori come attivi, indicando così discrezionalmente una certa soglia di attivi, che non coincide ovviamente con quella della vigilanza bancaria in Europa, europea in Italia, ma è molto più bassa, apposta per trasformare le SPA, dicendo: voi siete delle popolari solo per finta, siete delle coalizioni di manager che comprano le assemblee, fate il cacchio che vi pare, quindi obblighiamovi a prendere la forma di SPA, perché questo vi dà più disciplina di fronte al mercato, vi obbligherà a fondervi e vi darà gli strumenti sia di capitale che di trasparenza nella comunicazione per crescere. Questa è la sintesi della volontà della riforma. È una riforma scritta coi piedi, però, perché poi improvvisamente arriva proprio nell'ultimo momento in cui deve scattare l'obbligo, e ci sono due popolari ancora che non hanno votato la loro trasformazione in SPA, cioè Bari e Sondrio. Eppure arriva un'impugnativa che ha dei fondamenti, perché è stata scritta con i piedi, soprattutto la parte poi del decreto attuativo della Banca d'Italia, con un eccesso di discrezionalità, non riconosce il diritto di recesso, le banche possono fare un po' quello che vuole, e adesso siamo per sospensione, dovrà pronunciarsi la Corte Costituzionale. Ma di fatto il più è avviato nella trasformazione delle banche, di fatto il danno è emerso dei finti conti, della scarsa trasparenza, e in questo libro, che si intitola Banche Impopolari, inchiesta sul credito popolare e il tradimento dei risparmiatori, due autori che sono giornalisti di Repubblica, uno per la parte finanziaria e uno per la parte giudiziaria, cioè Andrea Greco e Franco Vanni, vi raccontano non solo del punto da cui partiamo oggi, cioè Veneto Banca e Popolare di Vicenza, ma vi raccontano di questo, vi raccontano dei Popolare Milano e Banco Popolare, vi raccontano di UbiBanca, di cui i grandi giornali tendono a parlare poco, perché dietro c'è una persona che si chiama l'anima bresciana, Giovanni Bazzoli, e bisogna stare tutti in punta di piedi. UbiBanca che si presenta a tutti i tavoli in questi anni, Siena, Popolare di Milano, Banco Popolare, poi finirà per prendersi invece un pezzetto delle quattro banche risolte. Vabbè, a un euro, tutto sommato è un affare, no? Però anche lì c'è da discutere, perché c'è un'indagine aperta in ciascuna di queste, e anche lì vi descrive la Popolare di Bari, un'altra di queste vicende che c'ha la mano sulla testa della Banca d'Italia per via del fatto che gli ha fatto risolvere la vicenda di Tercas, ma insomma è una storia che vale veramente la pena, la terza generazione familiare alla testa di una banca e così via, è un quadro preciso e alla fine un capitoletto secco in cui ci sono i quattro vantaggi e i quattro punti interrogativi a distanza di due anni della riforma di Renzi. Ora, i due autori, grazie Andrea Greco e Franco Vanni di essere con noi. Grazie a voi. Ciao Oscar, grazie. Chiedo a Franco Vanni, che è la parte, diciamo così, più seria, adesso Andrea Greco sarebbe perché è la parte giudiziaria, no, sto scherzando, però chiedo a Franco Vanni, la sintesi che ho fatto è ai tuoi occhi sufficientemente onesta oppure no? È correttissima e assolutamente onesta. Se vogliamo scendere più nel dettaglio della questione giudiziaria, l'inchiesta più forte che adesso è aperta in Italia è senz'altro quella doppiata che riguarda Popolare di Vicenza alla Procura di Vicenza e Veneto Banca invece a Roma. Diciamo, il focus giudiziario è sicuramente su questi due istituti. Perché? Perché la tesi delle procure, che poi dovrà ovviamente reggere nell'eventuale processo, è che le due banche, quando sono state chiamate a ricapitalizzarsi, si sono fatti i soldi in casa, nel senso hanno prestato ai soci azionisti quei soldi che servivano per acquistare le azioni della banca, iscrivendo poi fra le attività i soldi che entravano e dimenticandosi invece di mettere a bilancio i soldi che prestavano agli azionisti soci per l'acquisto delle azioni. Questo è il cuore delle due inchieste. Abbiamo un'inchiesta romana su Veneto Banca con in campo il nucleo speciale di polizia valutaria della finanza, che sono i top gun, diciamo, delle indagini fiscali in Italia, delle indagini economiche in Italia, che ha portato a delle misure e in un certo momento ai domiciliari per Vincenzo Consoli. Abbiamo un'inchiesta vicentina che sembra andare un po' più a rilento e che ha visto adesso interrogato Gianni Zonin nei giorni passati. Il cui nocciolo di difesa di Zonin è che hanno fatto tutto i due maggiori manager che erano sotto di lui. Zonin smentisce in maniera radicale ciò che chiunque, giornalista o cliente, imprenditore o regolatore, toccava con mano nei 19 anni del suo regno, cioè che comandava esclusivamente lui, che non si muoveva foglia. Lui dice tutto il contrario, lui è una vittima, non ha mai saputo nulla, Franco. Qua adesso esiste, diciamo, una realtà suggerita dal buon senso, dalla conoscenza comune, e una realtà in atti giudiziari. Spesso non coincidono, a volte non si parlano. Quello che dice Zonin risulta ridicolo alle orecchie di chiunque che sapesse come funzionava una cosa a Vicenza, ma non è detto che possa avere una sua forza nel processo, nella misura in cui mentre Vincenzo Consoli per sé aveva scelto un ruolo molto operativo, amministratore delegato prima e direttore generale poi. Tu dici lui formalmente, bisogna vedere cosa ha firmato, esatto, davvero. Esattamente, noi abbiamo intervistato per questo libro un gestore private di area vicentina, Rizzi si chiama, il quale descriveva le cene in ristoranti stellati o comunque ristoranti di altissimo livello, in cui la dirigenza della Popolare di Vicenza convinceva i soci a comprare azioni con soldi prestati dalla banca. Bene, Sorato e Giustini, che erano il direttore generale e il direttore commerciale della banca, c'erano sempre, Zonin non c'era mai. Quindi la fatica supplementare che dovranno fare e che stanno facendo gli investigatori vicentini nell'indagine su Popolare di Vicenza è dimostrare come Zonin, che è indagato per ostacolo alla vigilanza nell'inchiesta, fosse il motore di tutto. Il buon senso dice che era così, la vicenda giudiziaria potrebbe prendere un'altra piega, è tutto da vedere. Però Oscar, io devo parlare con Andrea invece di soldi, se non ti dispiace, perché no, voglio parlare del modello di banca cooperativa, Banca Popolare. Qualche anno fa ho scritto un piccolo saggio che dice: attenti, perché un conto è banca locale e un conto è banca cooperativa. La banca locale nasce nella letteratura scientifica perché usa la cosiddetta soft information, cioè conoscenze personali, relazioni, mentre la grande banca deve usare la hard information, quindi consente di aumentare quella che noi chiamiamo in letteratura banking distance, cioè anche se sei lontano riesco a capire cos'hai perché stai usando i numeri. Bene, nella parte iniziale del bel libro di Andrea e di Franco. E Franco, esattamente, c'è una bella battuta che dice: un modello che aveva, diciamo, era glorioso un secolo e mezzo di storia, prima gloriosa e poi meno. Ecco, volevo concentrarmi su questo perché a me interessa parlare di futuro. C'è spazio ancora, secondo voi, con questa disamina che avete fatto, per un modello di banca locale, quando ormai Basilea 3, Basilea 4 domani invece impongono rigorosi modelli formali, e c'è spazio per banca cooperativa ancora, quando la trasparenza e le regolamentazioni dell'Unione Europea impongono criteri di patrimonializzazione e di governance profondamente diversi. A netto di quello che deciderà la Corte Costituzionale, visto che siamo riusciti ancora una volta a metterci nelle sue mani. Comunque, Andrea Greco, che dice? Allora, io risponderei di sì, che c'è spazio, a mio avviso, lo dimostra il fatto che ci sono diverse fiorenti, non tutte fiorenti per la verità, pensiamo alla Germania, banche popolari e cooperative in tutta Europa e anche negli Stati Uniti e in Canada. C'è spazio per le banche di territorio, sì. C'è spazio per le banche popolari, anche sì. Non c'è spazio per le banche che sono popolari, perché questo permette o ha permesso a una consorteria di dirigenti e di potenti locali di sfruttare il principio aureo per il settore del voto capitario, cioè una testa vale un voto, non un dollaro vale un voto, di sfruttare il principio del voto capitario per controllare le assemblee, soprattutto nel caso in cui quelle banche fossero quotate. Perché l'anomalia delle banche popolari quotate è un'anomalia tutta italiana. Noi abbiamo ricostruito un episodio piuttosto divertente. Alla fine degli anni 90 la Commissione Draghi portò in Parlamento un emendamento alla riforma del testo unico della finanza per eliminare la possibilità per le popolari di essere quotate. Tra i giovani professori della Commissione Draghi c'era anche Alessandro Penati. Quell'emendamento fu passato da tutto l'arco parlamentare, quindi li impallinarono e oggi ci ritroviamo con delle banche che non solo hanno perso il contatto con i soci, perché negli anni 90 c'è stata, e anche nei primi anni del 2000 c'è stata una grande tendenza alla concentrazione, al gigantismo e anche a dare molto più credito di quello che si sarebbe dovuto su alcuni territori, soprattutto in Veneto ad esempio. Quindi hanno perso il contatto con i loro soci e hanno perso addirittura il contatto con il loro territorio. Il concetto della prossimità per queste banche, che è addirittura regolato, in molti casi è stato un concetto del tutto formale, è stata una scatola dove si sono messe dentro altre cose. Voi spiegatemi qual è il senso per una banca che usa, come l'hai chiamata tu, la soft information, cioè la conoscenza dell'imprenditore locale e degli operatori nella sua zona, come era la Vicenza ad esempio, come nasce comprarsi una banca in Sicilia. Difatti Banca Nuova in Sicilia è una banca che ha un sacco di problemi, probabilmente perché la conoscenza di quel territorio non era il motivo preciso per cui Zonin mi convocò e mi disse: io la mando a zappare. E io gli risposi: le vigne. Meglio a zappare che in galera, fu la mia risposta, e per quello ovviamente mi chiusero un giornale. Ma io devo dire, non mi sono mai pentito di questa roba qua, mi hanno pure licenziato disciplinarmente, ho vinto il tribunale. Due braccia levate alla viticoltura, Se posso, però ancora io insisto con Andrea che non mi convince. Aspetta però tra un minuto, perché okay. Torniamo tra un minuto dopo il traffico. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta Fratelli d'Italia, l'Italia alle mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Eccoci qua in diretta, cari azionisti di Veneto, di Vicenza, la Popolare di Bari, cari 600.000 italiani che avete titoli liquidi, che avete scoperto in questi due anni che non era vero che i titoli il cui valore è fissato con multipli rispetto al patrimonio netto, rispetto alle banche quotate, e così continua a essere, tutti superiori all'unità. Però c'erano rispetto... perizie autorevolissime di grandi professori. Anche di tuoi colleghi della Bocconi. Ma cosa mi fai dire? Anche di tuoi colleghi della Bocconi, ma non è vero, non lo dico, adesso lo ritiro, se no poi ti creano problemi. Ma detto tutto questo, abbiamo con noi gli autori di questo bellissimo libro, leggetelo davvero per avere uno spaccato preciso di cosa porta uno dei tre pilastri del sistema bancario italiano a andare incontro alla vicenda a cui va incontro, e che esplodono dopo la riforma che le obbliga alle 10 maggiori a trasformarsi in SPA. Il titolo è Banche Impopolari, e sono con noi Andrea Greco e Franco Vani di Repubblica che lo hanno scritto. C'era un'obiezione che Carlo Alberto voleva fare ad Andrea. Sì, è sul fatto che il modello organizzativo delle banche popolari non mi convince, perché da un lato tende a concentrare il rischio, raccolta in un posto, impiego nello stesso posto, con effetti di conflitti di interesse potenziali chiaramente segnalati dalla vigilanza europea e noti in letteratura. Che quindi ovviamente è un rischio non solo geografico, un rischio anche che no, di no, solito un rischio in quel finanziario, posto di stabilità finanziaria. Due o tre grandi settori, c'è, esatto, anche un rischio di concentrarsi. Bravo, vedo che hai capito, Oscar, perché questa retorica delle banche, grazie, di territorio, professore, che finanziano il distretto è una retorica che funzionava nel momento in cui i meccanismi, diciamo, di stabilità finanziaria non erano europei. Oggi è un rischio perché stiamo aumentando il livello di concentrazione, quando invece la logica di stabilità finanziaria vuole quello della diversificazione, cioè raccogliere dovunque e investire dovunque. Questo è il senso. Quindi, lasciando stare l'aspetto finanziario, che invece va cambiato, vediamo l'aspetto invece di impieghi, i criteri degli impieghi. Io prendo i dati di Banca d'Italia. Il 95% delle banche cooperative usa come analisi del rischio i bilanci dati dall'imprenditore, mentre l'85% delle grandi aziende creditizie usa big data, strumenti formativi, dati incrociati. Quindi diciamo si sta attrezzando, si è attrezzato. Sono dati di banca, no, sono dati ufficiali di Banca d'Italia, guarda, te lo dico. Questo vuol dire che il livello di non soltanto di raccolta informativa, ma anche di accountability, cioè di trasparenza, di documentazione delle scelte di credito, nel primo caso nelle piccole banche locali, non è verificabile. Quindi è facile comprarselo l'impiego, è facile fare dumping o sussidio, perché non ci sono elementi oggettivi di verifica, di auditing e di governance, cosa che invece sono nelle grandi banche. Però io ricordo anni addietro le intemerate dei banchieri locali che dicevano: ma questi quozienti numerici spersonalizzano l'analisi, certo, di credito e soffocano il credito, sì, sono usciti fior di libri anche di contesto accademico che contestavano questo. Allora, punto. Io vi dirò, cari due, però poi facciamo rispondere Andrea e Franco, che dovete leggerlo il libro anche voi, perché troverete per esempio laddove si parla, cari ascoltatori, della Banca Popolare di Bari e di questo lungo regno di padre in figlio, troverete l'intervista di un giovane assunto in questi ultimi anni a Bari, che si è fatto le ossa nel nord, è una dei fiori all'occhiello degli Jacobini assumere bancari che hanno imparato nelle grandi banche del nord, e che sia pur riconoscendo, mi conviene, qui certo ci ho rimesso il 30% della retribuzione, però insomma qui tutto costa meno, però se c'è una cosa in questa banca che però manca è esattamente il fintech, la nuova tecnologia, la formazione su questo. Quindi la risposta c'è già nel libro di Andrea Greco, ma io sono un pessimo esegeta e lasciamo rispondere l'autore. Andrea. È molto interessante l'analisi di Carlo Alberto. Il discorso, io non vedo una realtà così binaria, nel senso che è vero che la banca di territorio ha una raccolta e un impiego concentrati con possibili conflitti di interesse e deve imparare a stare sul mercato, sia nelle emissioni, sia nelle pratiche di governance, nei comportamenti e nella capacità manageriale, che qualche volta ha fatto difetto proprio perché, come si è visto, no, su alcune locali, per esempio in Meridione, è stata troppo concentrata e limitrofa. Però è anche vero che la banca universale, quella che raccoglie ovunque, impiega ovunque, non è che sta passando un grandissimo periodo, mi pare, no? Le banche che vanno bene in Italia sono, penso a IFIS, Mediobanca, Mediolanum, Fineco, Credem, Cariparma, anche alcune popolari come Piacenza, Ragusa, sono banche che sono capaci di fare bene una cosa. Poi c'è una banca che va bene, che è Intesa San Paolo, che fa diverse cose, però soprattutto in questa fase guadagna con il risparmio, come voi sapete, della gestione dei grandi patrimoni. La banca universale, per il resto, con questo scenario di tassi sotto zero, ha dei grossi problemi, anche dei problemi a riconoscere il rischio e anche secondo me a impiegare bene. E infatti, quindi, per questo ho detto, si stanno non butterei via il modello di banca di territorio. Purché fatte bene con trasparenza. Purché fatta bene con trasparenza, con accountability, con gli azionisti che sono capaci di dire la loro e non soltanto magari di farsi irretire dai prestiti dati in cambio di finanziamento alle azioni, oppure dei buffet, delle assemblee, no? Portati lì col pullman. Insomma, c'è molto da fare, però il rischio, e la riforma del governo di Renzi è un po' una metafora di questo, è di buttare via il bambino con l'acqua sporca, che secondo me non sarebbe un grande affare, anche perché si perde un pezzo di biodiversità. Ricordiamoci che i distretti, dopo la crisi degli ultimi anni, c'è un dato recente che ha fatto lo studio Intesa San Paolo, sono comunque le 149 aree d'Italia dove si cresce più del resto, dove si è tornati a livelli di ricavi pre-crisi. Allora, io ringrazio Andrea Greco Francovanni, mi è piaciuto il libro anche perché non risparmiano giudizi secchi su un punto su cui la maggior parte dei miei colleghi tiene la penna bassa, cioè la Banca d'Italia, e non solo quella dei tempi di Fazio, anche quella dei tempi successivi di Draghi e di Ignazio Visco, perché troppi sono gli episodi coi punti interrogativi di ex Banca Italia in queste banche. Mi è piaciuto molto questo, e mi è piaciuto molto il capitolo in cui documentano, dati alle mano, che il credito anche per 150, 200, 250 punti base in meno di interesse dato per tanti anni nel Nord-Est non era un segno di forza, era il segno del marcio, cari imprenditori. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Della belva. Ed eccoci tornati qua in diretta 11:09 primi 17 secondi. Molto interessante, ripeto, quel libro di Andrea Greco e Francovanni, Mondadori, spie, la collana, banche impopolari, inchiesta sul credito popolare, il tradimento dei risparmiatori. Però ragazzi, noi dobbiamo un supplemento di informazione ai nostri ascoltatori, soprattutto in Veneto, cioè cosa devono pensare secondo voi Carlo Alberto e Mario, gli azionisti di Veneto e Vicenza? Perché sapete, i giornali tendono a dirgli: ma no, la precauzionale, lo Stato, tutto a posto, insomma basta che, e noi siamo di questa linea, gliel'abbiamo già fatto l'appello la settimana scorsa, dite sì al ristoro perché correte il rischio altrimenti di perdere tutto. Però non che questo, come scrivono molti con un po' di leggerezza, significhi, beh, a quel punto state a posto, perché almeno per una delle due, secondo me, siamo ancora lungi dall'aver ottenuto l'ok a Bruxelles. Voi che dite? Beh, direi che è stata chiara l'intervista data dalla Nui e dalla Vestager in questi giorni qua, rispetto al fatto che la missione alla ricapitalizzazione precauzionale è comunque soggetta a una serie di vincoli, per esempio quello di incorporare nelle perdite tutte quelle attuali e quelle prevedibili, B, che i ristori per gli obbligazionisti sono comunque soggetti a vincoli importanti, perché ovviamente sono a carico della banca, e l'hanno ribadito questo, devono essere soggetti a vincoli che compatibili col patrimonio. Quindi a me spiace dirlo, ma consiglio di leggere le norme italiane ed europee invece di dar retta ai consigli di qualche improvvisato analista finanziario. Mario? Io sono d'accordo, perché il fatto che la Nui abbia ribadito che la strada, in alcune circostanze, la strada meno costosa per il sistema può essere la risoluzione delle banche, non è che abbiamo scoperto l'acqua calda, perché la BRRD nasce per quello, no? Per confrontare i costi tra una liquidazione coatta amministrativa o procedura equivalente e diciamo la risoluzione. Quindi esiste, questo tema è sul tavolo e questa cosa è una cosa con cui dobbiamo misurarci. Dopodiché, siccome vedo che c'è anche gente che ci critica perché noi stiamo caldeggiando l'adesione alla OTP, alla OPT, scusami, all'offerta pubblica di transazione delle due venete, io vorrei dire a queste persone: se voi avete un'alternativa che però stia, che non stia nell'iperuranio, no? che non implichi l'uscita dall'euro, la stampa di moneta e tutte queste stronzate che vi portate dietro nelle vostre testoline fantasiose, comunicatecela, vediamo di venirne a capo. Altra cosa, parliamo un attimo di Deutsche Bank, che questa cosa mi pare estremamente sfiziosa. Deutsche Bank ha completato un aumento di capitale esattamente come lo ha fatto Unicredit, ce l'ha fatta. Io mi chiedo per di mercato. Ok, esatto, in condizione avendo comunque di mercato, pagato un prezzo di mercato e importante, altro ne pagherà, perché quella banca continua a non stare bene. Però io non capisco perché in questo paese si stanno scomodando ottimi giornalisti economici investigativi di tradizione con questa storia che la vigilanza europea non ha imposto a Deutsche Bank e ad altre banche di accantonare ferocemente per i level 3, per gli attivi illiquidi. Signori, cosa ve ne veniva in tasca? No, ma poi al di là di questo, adesso stiamo parlando, siamo chiari. Perché poi mi taccio, illiquido non vuol dire tossico, mettetevelo in testa per evitare che poi mi dicano, io amo a parlare apertamente. Il riferimento che hai fatto è all'inchiesta fatta sulle 24 ore da Claudio Gatti, una delle più grandi firme del giornalismo investigativo economico finanziario italiano, con colpi storici di Iraqgate e così via. Nessuno discute assolutamente questo. Però, cari autorevolissimi colleghi, lasciate che vi diciamo in punta di piedi, però anche con chiarezza, per quello che anche qui c'è gente che fa mestieri diversi attinenti a questi da decenni, non è una grande rivelazione, capite, che i derivati complessi siano per ciascuno di questi così complessi a volte, a seconda di come sono costruiti sui sottostanti, da non entrare in una modellistica di rischio generale, ma di essere per questo sottesi e richiesti di modelli interni di valutazione, perché dipende da che cosa si parla, mentre voi continuate a dirlo come se fosse una clausola di esenzione dalle tecniche di rischio e di valutazione del rischio secondo schemi generali che valgono per altri tipi di asset e prodotti. Questa roba qua è come l'ABC, perdonatemi, della finanza strutturata, e non deriva da un favore discrezionale reso, deriva dal fatto che la modellistica generale applicata a tipi di prodotto, ognuno dei quali è diversi, è un casino. Non può esistere. Esatto. Ecco, ci siamo capiti, noi non stiamo criticando il fatto, ma come continuate a insistere? Noi ci limitiamo a dire, e lo diciamo con delicatezza, proprio perché è uno dei punti su cui invece il sole ha più insistito. Primo, i prodotti di Asset 3 non sono definibili, come troppo spesso si è fatto, tossici. Non è così. Sono illiquidi, ecco, per partire. È un'altra cosa. Secondo, non esiste la possibilità di valutarli secondo schemi generali, per questioni tecniche che sono evidenti a chi sa di che cosa parla. Se voi invece diamo ancora l'idea, dopo tanti anni dall'esplosione della bolla finanziaria, dei subprime, eccetera, eccetera, che invece ci sia una valutazione discrezionale, tu hai quel prodotto, allora sei mio amico, non ti vengo a guardare, secondo me noi pettiniamo la bambola, come direbbe Bersani, nel senso sbagliato. Poi hanno strutturati all'attivo, strutturati al passivo, quindi c'è un netting delle due posizioni, eccetera, eccetera. Io veramente non è... Poi mi diranno che sono il solito stronzo, filo tedesco, pazienza, tanto voglio dire, raglio d'asino non sale in cielo. Appunto. Però proviamo ad essere minimamente razionali sul concetto. Lo so, a volte è complicato, perché comunque è complicato per chi è convinto che invece così non si serva l'Italia. Io penso che servo la correttezza di informazione, poi l'Italia, vedete voi. Daniele da Vicenza, prego. Sì, dottor Giannino, buongiorno. Sì, sono un dottore, ma grazie. Benissimo, intanto buona giornata a lei e ai suoi ospiti. Sì. Allora, ci sono due dati però che con ogni probabilità alla gente potrebbero interessare. Sì. E questo probabilmente non si è ancora sviscerato fino in fondo, nel senso che praticamente chi ha accetta l'offerta transattiva, poi non può più fare causa alla banca. Eh sì, qui sì. Ohimè, allora, è il noccio della faccenda. Questione. Eh già. Ok? Allora, se io devo avere per ristoro un panino e un bicchiere di vino, allora di ristoro si tratta. Qui si parla di miliardi di euro di risparmi, di gente che ci ha messo il sudore, di gente che ha messo la propria vita nelle mani di una banca. Lei mi potrà dire, benissimo, la diversificazione, l'investimento, qui non si tratta né di diversificare né di investimento, qui stiamo parlando di pensionati, di lavoratori, sì. Di gente che ci ha messo veramente l'anima, uno. Due, Banca d'Italia è al corrente dal 2001 delle irregolarità delle popolari venete. Plaudo anche se lo dicono di no. Sì, plaudo. No, allora c'è un documento emesso da Banca d'Italia ad ottobre del 2015. Preciso, esatto. Benissimo. In cui si dice testualmente chiarimenti sul caso Banca Popolare di Vicenza. Ma allora, mi scusi, io dico una cosa. Dal momento in cui io devo chiarire come Banca d'Italia, organismo di controllo di quello che possa essere il sistema bancario italiano, non vedo che cavolo di chiarimenti debba io dare in merito ad una banca che dovrebbe essere controllata da me. Uno. Due. Il fatto stesso che nel 2001 il primo esposto, che poi successivamente si è ripetuto nel 2007, sì. Poi nel 2009, sì. Poi nel 2011, poi è intervenuta la BCE, eccetera, era stato sollevato anche da alcuni giudici qui di Vicenza. Sì. Ricordo tal giudice Carreri, nel 2002 ha denunciato Banca Popolare e Zonin. Cancellato tutto, non si sa dove sia finito. Fatalità, però, la Carreri è stata uno diffamata e spostata dalla procura. Sì, sì, è stata convinta. E non se n'è più fatta niente. È stata convinta a dimettersi dalla magistratura, la Carreri, dicendo che frodava il contribuente. Sì, sì. Le dirò di più. È stata accusata di essere. Ma, capisce? Esatto. No, mi è chiaro. Non è la zecca Garbugli, qui siamo oltre la zecca Garbugli. E la colpa della dottoressa Carreri era stata quella di aver rifiutato una richiesta di archiviazione da parte di un PM su Vicenza. Sì, e lei aveva detto: no, io voglio l'imputazione obbligata. Risultato: benissimo. È fuori dalla magistratura. Ecco. E quando io ho riportato la cosa in trasmissione, su una trasmissione televisiva mesi fa, mi è stato risposto: io non so. Io penso sia informato dei fatti, signor Marangoni, con ogni probabilità sì, io sì, ma l'opinione pubblica, ma l'opinione non pubblica conosce queste cose. Allora io dico, ma se esiste una giustizia in Italia, io capisco che le banche siano sull'orlo del collasso, che si consigli di comprare, di aderire alla all'offerta transattiva, sì. Eccetera. Però io non ho capito, se siamo in un paese di giustizia e non di giurisprudenza, se una cosa è sbagliata a casa mia è sbagliata. Allora Daniele, io siccome ripeto sono veramente, credo di aver dato fino a farmi licenziare per la questione di Zonin, quindi le do ragione sul fatto che scoprono tutti dopo le cose e per anni sono stati tutti zitti. Detto tutto questo, però l'alternativa qui, la giustizia posso capire, ma qui di giustizia ce n'è poca. Il problema è l'alternativa, accetto il ristoro, e esatto, nasce proprio per stoppare il contenzioso e per evitare di dover accantonare miliardi per fronteggiare il contenzioso che la banca non ha, oppure mando la banca in bail-in. Ecco, questa è l'alternativa secca tra accettare un 14% un po' meno del 15% oppure no. Dopodiché, sa, per la giustizia io la penso come lei, ma è un altro paio di maniche, perché significa obiettivamente dire: signori, non ce la farete. Tenga conto, le due banche non sono esattamente con la stessa mole di emersione di nuove perdite da coprire con un nuovo capitale. C'è una che sta un po' meglio, una che sta un po' peggio. Ma questo significa, in altre parole, se non si raccoglie il 75% almeno per cento, non sarà l'80% visto che hanno protratto la data, di rinuncia al contenzioso. Mi rendo conto, è molto amaro rifiutare, ma significa con certezza sapere che Mion, Viola, eccetera, dicono: cara Banca d'Italia, cara BCE, comunque, se noi all'aumento di capitale che ci chiedete aggiuntivo, sapendo che Atlante ci ha già messo 3 miliardi e mezzo, che non c'ha i soldi, che non li vedrà più, ecco, che non c'ha soldi aggiuntivi da fare, se oltre a quello che ci chiedete dobbiamo anche mettercene 3, 4, 5 di accantonamenti di miliardi per il contenzioso, mi capisce, caro ascoltatore, cosa vuol dire. Vedete voi, a me non fanno paura i bail-in, però bisogna sapere che poi non bisogna dare la colpa agli altri. Ecco, questo è il punto di fondo di questa amara scelta. Torniamo tra un minuto. Fratelli d'Italia, l'Italia l'è mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa. Stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì. I conti della Belva. Eccoci qui tornati in studio con i compari dei Conti della Belva, Oscar Giannino, Mario Seminerio e Carlo Alberto Carnevale Maffè. E pensando adesso a ciò che avviene, già iniziato ieri a Roma per ricordare il 60° anniversario del Trattato di Roma, a tutti gli effetti dopo la CECA, stiamo parlando degli anni 50, le prime pietre da cui per evoluzione poi nasce l'Unione Europea, nasce l'evoluzione nel tempo dei diversi trattati che si accumulano, nasce e poi muore, trafitto al cuore dai referendum costituzionali contrari, l'idea di una Costituzione europea, nascono costole aggiuntive di selezione di argomenti sui quali alcuni paesi decidono di approfondire la collaborazione, come l'euro da una parte, come Schengen dall'altra, nascono poi strumenti extra trattato e di cui tra poco bisognerà capire che cosa ne vogliamo fare, e che pure sono fondamentali nella disciplina economica finanziaria e nelle devastanti polemiche che si è suscitato negli ultimi anni l'area europea, perché il fiscal compact e il patto di stabilità fino a tutto l'evoluzione di ciò che dal fiscal compact nasce, il SIS Pact, il TU Pact e così via, sono extra trattati, e proprio entro la fine di quest'anno, per il 2018, l'Unione Europea è chiamata a un grande giro di tavola per capire che cosa ne vogliamo fare, che tipo di strumento vogliamo avvolgere. Ecco, sul tavolo il centro del fuoco politico nell'evoluzione faticosa del documento finale dell'incontro di Roma, che è in corso, ha riguardato la grande scelta se prendere atto che l'alternativa alla disgregazione è solo identificare alcune aree nelle quali, lasciando il mercato comune per tutti coloro che vogliono, altri possono andare avanti e approfondire la loro cooperazione, se indicarla proprio come la strada vera. Allora c'è un titolo e c'è un libro che ha per tempo ha visto questo, e dal titolo del libro indica con chiarezza la strada da seguire a 60 anni dai trattati di Roma, perché il titolo del libro è Sdoppiamento, una prospettiva nuova per l'Europa, quella che ho tentato di sintetizzarvi, e l'autore è con noi, il professor Sergio Fabbrini, che è direttore della School of Government dell'Università Luis Guido Carli di Roma, è uno scienziato della politica. Il libro a me è molto piaciuto, ma i libri Fabbrini io per mestiere li leggo tutti. Naturalmente Fabbrini è uno di quelli che chiede ai politici e agli studenti di iniziare da un'approfondita lettura dei padri fondatori americani per capire di che cosa si parla quando si tratta di stati sovrani, unione, confederazioni o federazioni. Io ho sempre pensato che sia un po' troppo chiedere ai politici italiani di conoscere davvero chi fossero Thomas Jefferson, Madison e Alexander Hamilton, però i Federalist Papers sono in realtà il fondamento di tutte le scelte da fare, e sono anche il problema aperto oggi tra chi voleva il debito pubblico centralizzato come lo fece poi Hamilton e chi obiettava invece, ed era Madison, e io stavo con Madison e non con Hamilton. Ma detto tutto questo, il professor Fabbrini va al punto e lo fa anche senza indulgere nei toni pessimistici, distruttivi, che sono quelli della cronaca politica e soprattutto della cronaca giornalistica che noi facciamo, raccontando una specie di Europa che non esiste più, azzoppata, avvelenata, oramai hanno ragione quelli delle frontiere nazionali, del ritorno ai dazi, dei muri e così via. Professor Fabbrini, grazie per il libro e grazie soprattutto per la passione che porta da molti anni a questi temi. Lei dice che i fondamenti di questa cooperazione rafforzata sono da sempre nella storia degli stati e sono tre, tutto sommato, no? Sì, ma intanto qualsiasi, grazie di nuovo per avermi chiamato a questa discussione con voi. Intanto qualsiasi discussione sull'Europa deve essere una discussione responsabile. Quello che io chiedo ai politici, non guardo sinistra, destra e centro, è di guardare i fatti. L'Europa ha i suoi difetti, certamente, ma ha dato a questo continente uno dei periodi più lunghi nella sua storia di pace, di prosperità, di stabilità democratica, di protezione sociale. Disconoscere tutto questo è non solo falso, ma è irresponsabile. Tuttavia dire che questa Europa va bene così non va bene lo stesso, esatto. Si può dirlo. Quindi quello che io chiedo weberianamente a chi prende decisioni è di avere il senso della complessità, di capire che le grandi conquiste che abbiamo raggiunto, ma allo stesso tempo anche i limiti, i difetti, le sfide che non siamo in grado di affrontare. Perché queste sfide non sono così difficili da affrontare? Perché l'Unione Europea è cresciuta a partire dai trattati di Roma del 1957, secondo una logica che è stata definita funzionalista. Dopo la sconfitta del progetto di Comunità Europea della Difesa in Francia nel 1954, si è pensato che l'unico modo per andare avanti nell'integrazione era quello di individuare dei problemi comuni, soprattutto sul piano del mercato, di trovare delle soluzioni per quei problemi, intorno a quelle soluzioni costruire delle istituzioni e così procedendo, aiutando i cittadini europei a trasferire, come si diceva, le lealtà dal livello nazionale a quello europeo. Ora, questo progetto che ha un nome preciso, insomma il metodo di Jean Monnet, che poi è stato seguito dalle istituzioni comunitarie, che ha dato vita anche a una cultura, diciamo così, comunitaria. Questo modo di affrontare l'Unione Europea non funziona più. Non funziona più perché noi non solamente oggi abbiamo fatto dei passi importanti sul piano del mercato, ma da Maastricht 1992 in poi, con la fine della Guerra Fredda, sono entrati nell'agenda europea dei problemi molto politici, con una grande salienza politica, per esempio la difesa, la politica estera, naturalmente la politica degli interni, la politica migratoria, la politica economica, quella di bilancio, fiscale. Ora, queste politiche non si possono affrontare in modo funzionalista, dicendo ok, andiamo avanti, li individuiamo, troviamo la soluzione, creiamo istituzioni e così via. Queste politiche richiedono in qualche modo una scelta, una visione. E il mio argomento è che noi dobbiamo ritornare a quel 1954, quando allora ci fu il tentativo di dire mettiamo insieme la difesa per garantire in qualche modo anche la pacificazione della Germania, il suo addomesticamento, e oggi dovremmo fare una cosa di questo genere, prendere atto che dopo 60 anni ci siamo allargati, ci siamo estesi, ma dentro l'Unione Europea sono entrati paesi con prospettive diverse, che hanno una visione diversa dell'integrazione europea rispetto ai fondatori. E quindi questa pluralità di finalità non riesce più a stare insieme. Per questo mi sono permesso di criticare il documento, la dichiarazione di Roma, perché ne ho visto oggi stamattina la versione finale, ancora sostiene che andiamo in direzione dello stesso obiettivo. Ci andiamo in tempi diversi, ma andiamo verso lo stesso obiettivo. Ecco, io ritengo che così non è. E continuare a dirci che così invece ci crea confusione. Certo. Vittorio Orbán in realtà regala argomenti ai critici radicali, secondo esattamente me. Perché Orbán, Kaczynski, i paesi dell'est Europa sono usciti da una dominazione sovietica che è stata prolungata. Per loro il nazionalismo è la riconquista di un'identità nazionale. Certo. Chiedere a loro di entrare in un progetto sovranazionale vuol dire chiedergli una cosa impossibile. Per i paesi scandinavi, come lo sostenevo da tanto tempo, come per la Gran Bretagna, lei l'ha sempre ricordato, lei l'ha sempre ricordato. Sempre, lì il nazionalismo ha una radice democratica. Certo. Attraverso il nazionalismo gli inglesi hanno difeso le loro istituzioni democratiche. Nell'Europa continentale occidentale il nazionalismo invece ha una radice illiberale. Esatto, è un'altra cosa. Sì, sì. È un'altra. Allora, cercare di tenere tutti dentro lo stesso vestito. Ci sono questi negozi in America, sono molto popolari, in cui c'è un one size fits all. Uno va dentro e trova dei vestiti che va bene. Però nella realtà è un po' più complicato. Nella realtà è molto più complicato. Allora, per questo io parlo non tanto di differenziazione, non parlo di sdoppiamento. Perché sdoppiamento? Perché se noi differenziamo, io capisco le ragioni della differenziazione, ma se noi differenziamo, 6 paesi fanno una cosa, 8 fanno un'altra, 10 ne fanno un'altra, già 19 fanno l'euro, 22 fanno Schengen, 12 fanno le transazioni finanziarie, la tassa sulle transazioni finanziarie, alla fine destrutturiamo l'Unione Europea. Io mi metto sempre come studioso, dal punto di vista di uno studioso di democrazia, di un, dal punto di vista di un cittadino, cosa capisce? Cosa si capisce? Sì, non c'è più il fondamento. Ma no, non c'è più. Quindi se non capisce chi prende le decisioni, se non capisce a chi deve rivolgersi per criticare o sostenere chi prende quelle decisioni, è evidente che la pressione per ritornare a casa, per riportare quelle competenze a livello nazionale è fortissima. Allora, invece di andare verso una differenziazione che può destrutturare, dico sostanzialmente l'Unione Europea non è il WTO, non è il NAFTA, è un sistema che vuole essere democratico, io credo dobbiamo andare verso uno sdoppiamento, garantire un'integrazione nel mercato di tutti i paesi, quindi da Orbán, a condizione che rispetti certi criteri ovviamente di legali, di trasparenza amministrativa, di rispetto delle corti, eccetera, però cioè, possiamo avere un mercato allargato e domani in prospettiva riportare in quel mercato la Gran Bretagna, domani in prospettiva i paesi balcanici, sempre a queste condizioni, però dentro il mercato dobbiamo sdoppiare un'unione più piccola, più coesa, che ha delle istituzioni democratiche che i cittadini possono influenzare. Fabrini, però questo tema, secondo me, dal punto di vista istituzionale, lei l'ha sviscerato benissimo. Dal punto di vista economico, però, mi consenta un po' meno. Allora, vado alla pagina del suo libro dove si parla del dualismo, no? Representation e taxation, grande sì. Tema liberale del colonialismo inglese e della lotta di liberazione americana. Ecco, qual è l'equilibrio fra tassazione e rappresentanza in questo nucleo che lei ha chiamato correttamente Unione Federale e non Stato? Perché è un'unione federale, appunto, che ha poteri legislativi chiari, forti, diversi dal mercato unico, da quella che è l'attuale Unione Europea. Perché lo chiedo questo? Perché senza parlare di tasse e senza parlare di debito, cioè senza parlare di prelievo fiscale corrente, le tasse, e prelievo fiscale futuro, mi spiace, ma un'Unione Federale non nasce. E soprattutto non è chiaro il modello di welfare, che è questione liberale centrale oggi, poteva non esserlo 200 anni fa, ma oggi è questione liberale centrale. Il welfare è un modo per costruire affiliazione politica alla lealtà politica. Se l'Europa fosse direttamente chiamata a erogare sussidi di disoccupazione, è indispensabili se conserviamo l'unione monetaria, abbiamo bisogno di strumenti anticiclici che compensino gli shock asimmetrici, quindi abbiamo bisogno di strumenti di welfare centrali. Allora, caro Alberto, la tua domanda tradotta e semplificata da Fabrini è: come Fabrini dice, ci sono tre grandi aree su cui si costruisce questo nucleo di unione federale per chi ci sta, che sono le tre funzioni fondamentali, poi, cioè sono la sicurezza e difesa da una parte, dall'altra estendere la moneta anche al governo dell'economia, e la terza lo sviluppo, cioè l'infrastruttura, questa roba qua. La domanda che fa Carlo Alberto a Fabrini è: questa roba si fa con finanze comuni o si fa in maniera più confederale, con un'evoluzione per cui per ciascuna di queste cose si creano intanto fondi comuni aggiuntivi finanziati insieme? La differenza di fondo è se si crede davvero che esista ancora la possibilità di una vera Unione Federale, o se anche le cooperazioni rafforzate, lo sdoppiamento, esatto, di cui il parla tema Fabrini, tasse e debito resta maggior integrazione, ma di tipo confederale, con gli stati che decidono ancora le pensioni e l'offerta dei servizi, eccetera, eccetera. È chiaro che cosa le stiamo chiedendo, professor Fabrini? Certo, perfetto. Anzi, vi ringrazio perché è una domanda importante, è una domanda che merita davvero riflessione. Allora aspetti la risposta tra un minuto, perché mi ero dimenticato che c'era una pausa. Tra un minuto torniamo col professor Fabrini. Fratelli d'Italia, l'Italia alle mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Allora, eccoci tornati qui in studio in diretta, in in questo sabato mattina 25 marzo 11:41 primi con noi Sergio Fabbrini. Stiamo parlando del vertice per i 60 anni del Trattato di Roma, quindi l'Unione Europea. Il titolo del libro di cui è autore il professor Fabbrini, Sdoppiamento, una prospettiva nuova per l'Europa, la terza, dà l'idea precisa che lui vi ha descritto prima ai nostri microfoni. L'alternativa alla disintegrazione esiste, è quella di lasciare mercato unico per tutti e forse di farci tornare, speriamolo, bisogna essere cooperativi, non bisogna fare muscolare anche l'Unione, la Gran Bretagna un domani dopo il Brexit, ma intanto per chi vuole, per chi ci sta, una unione federale su alcune materie, la sicurezza, l'economia che estenda la moneta, lo sviluppo, le infrastrutture eccetera, su quelle andare avanti per chi ci va. E la domanda che gli facciamo noi è: ma in maniera federale, con risorse davvero congiunte, strumenti congiunti, a cominciare da uno strumento unico per il sussidio a chi ha perso il reddito per esempio, o in termini ancora di risorse separate, gli strumenti separati, in maniera quindi non federale ma confederale, professor Fabbrini? Ma dunque, tanto interessante il confronto con l'esperienza americana, perché nell'esperienza americana si dice che la rivoluzione americana, che ha portato poi alla prima Costituzione, poi alla seconda, quella di Filadelfia, il motto era appunto che non si poteva avere tassazione senza essere rappresentati. Da loro gli americani pagavano le tasse, ma non avevano modo di rappresentarsi. Nel caso europeo, quello che mi colpisce è che noi abbiamo una representation, possiamo dire il Parlamento europeo, però il Parlamento europeo non ha nessuna risorsa fiscale autonoma da poter gestire, quindi abbiamo nel nostro caso una representation without taxation. Questo, a mio parere, contribuisce anche a spiegare perché i cittadini europei non percepiscono il Parlamento europeo come un'istituzione così importante da dedicargli almeno una giornata per andare a votare ogni 5 anni. E la ragione di questo è perché la base fiscale, diciamo così, bilancio dell'Unione Europea consiste di trasferimenti finanziari dai singoli stati ed è un bilancio rigido, dentro delle quote stabilite che non si possono toccare, e quindi le istituzioni europee non hanno nessuna autonomia politico-decisionale. Ora, questo sistema non può funzionare perché siccome gli stati non si fidano reciprocamente, hanno messo in piedi un sistema regolativo, amministrativo rigidissimo, per cui non si può toccare niente. Noi ancora oggi più di un terzo del bilancio dell'Unione Europea è dedicato alla politica agricola comune, forse probabilmente l'agricoltura e gli agricoltori non rappresentano un terzo della popolazione, un terzo dell'economia europea. 3,4% della forza lavoro, per vostra informazione. Quindi diciamo, questo è il risultato di rigidità del sistema europeo, che nascono dal fatto che gli stati membri, i governi vogliono mantenere un controllo molto forte su questo sistema e contemporaneamente non si fidano. Allora, io quello che sostengo nel libro è di rovesciare il meccanismo, e guardando proprio l'esperienza comparativa sia degli Stati Uniti che della Svizzera. Naturalmente io sono un comparatista nel senso di Tocqueville, guardo gli altri non per imitare, solo gli imbecilli guardano per copiare, guardo gli altri per capire meglio come la strada che io posso perseguire. E quelle unioni hanno quei due paesi, quelle due realtà, chiamiamoli così, hanno due caratteristiche fondamentali che sono simili alla nostra. La prima sono aggregazioni di stati, sono federazioni per aggregazione. Esatto. Tutte le altre, dalla Germania, l'Austria, il Belgio, il Canada, l'Australia, sono invece stati federali che nascono per disaggregazione di uno stato precedente comunitario. Quindi sia gli Stati Uniti che la Svizzera hanno da affrontare un problema cruciale: come mettere insieme, tenere a bordo Rhode Island con la Virginia e New York. E lo stesso problema che abbiamo noi: come tenere a bordo Malta, che ha 400.000 abitanti, con la Germania. Un quartiere di Roma, insomma. Esatto. La seconda questione, che quelle unioni hanno simili a noi, è il fatto che sono costituite di stati, cioè che hanno identità nazionali, e l'identità nazionale non sono delle cose che si possono abolire con un articolo di un trattato. Le identità nazionali sono legate alla lingua, alla storia, alla tradizione. Se noi non riconosciamo le identità nazionali, è chiaro che quelle diventano prigioniere delle forze nazionaliste. Noi dobbiamo riconoscerle e garantire che nessuna identità nazionale venga dominata da un'altra identità nazionale. Allora, perché faccio questa premessa, scusate, teorica? Per dire che queste unioni debbono costruirsi separando il livello nazionale da quello sovranazionale. Bisogna dire quali sono le politiche che a livello sovranazionale, che io chiamo appunto il livello dell'unione, non dello Stato, dell'unione federale, possono essere fatte. Una volta stabilito questo, e così è avvenuto negli Stati Uniti, così è avvenuto in Svizzera, una volta stabilito questo, si individuano le risorse per portare avanti quelle politiche e le istituzioni per regolarle. Poi tutto il resto, come dice la Costituzione americana, va lasciato agli Stati, perché quello che noi abbiamo oggi in Europa è uno svuotamento delle democrazie nazionali. Le politiche di bilancio sembra quasi che le decida ormai la Commissione, non gli elettori nazionali. Non è che sembra, è proprio così, ecco, dai. Sì, cioè, esatto, fiscal compact, dobbiamo rivederlo, ma ha dei paletti importanti. Quindi siamo esatto, in un'unione del processo fiscale, ma non della sostanza. E questo esatto, ingessa entrambi, caro Fabrini. Ecco. Esatto, quindi per questo io anche nel libro dico, prima di dire il fiscal compact, riportiamolo dentro il trattato di Lisbona, pensiamoci, perché in realtà quella logica lì è una logica di centralizzazione senza democratizzazione. Questo non c'è dubbio. A me sorprende che la politica faccia tutta finta di non capire che entro l'autunno va impostato il dibattito esatto, su fiscal compact, che pure tutti a chiacchiere ne straparlano, secondo me spesso per tentare di dire agli elettori che non c'è margine per fare cosa, invece margine si potrebbe... La soluzione è che bisogna avere il coraggio di dire, bisogna dare un budget autonomo all'Eurozona. Ho capito, molto limitato, ma mi colpisce che soprattutto chi critica l'Europa non affronti questo tema, e chi invece la difende meno che mai, perché ha paura anche solo di citare le due parolette, sì, fiscal compact, esatto, probabilmente. Esattamente. Non lo so. Noi, per esempio, lei pensi alla discussione sul ministro europeo delle finanze, ancora adesso legge l'editoriale della Repubblica, di altri quotidiani, in cui si dice anche Draghi chiede il ministro europeo delle finanze, ma noi non possiamo avere, come chiede Wolfgang Schäuble, esatto, un ministro europeo delle finanze che decide le politiche finanziarie dei singoli stati, perché questa è una forma di intrusione, di invadenza che distrugge la democrazia. Il ministro europeo delle finanze si può fare quando ci sono le finanze europee, che quel ministro dentro un esecutivo europeo prende cura di gestire, ma non si può costituire un ministro europeo delle finanze, diciamo il nostro amico Dijsselbloem, che entra nel merito delle scelte che fanno i singoli stati membri. Comunque, dell'Eurozona. A me interessava far capire ai nostri ascoltatori che vale la pena di leggere Sdoppiamento, una profezia nuova per l'Europa. Posso dirlo, vale anche molti autorevolissimi colleghi che vergate articoli editoriali su questo, a volte io mi gratto un po' la testa, neanche coloro, come ricorda il professor Fabrini, neanche coloro che si riunì nel convention per la costruzione americana si amava particolarmente. Comunque si sente un riecheggio trentino nelle parole di Fabrini, si vede che ha studiato a Trento. È positiva per la difesa delle autonomie, infatti lui proprio insiste sul livello regionale, che è un tema interessante. Anche più basi. Comunque non si amavano particolarmente neanche loro, né si concepivano e avvertivano come un'unica identità, cioè voglio dire, tra i calvinisti del nord e quelli del sud c'erano diffidenze profondissime, però su alcune aree trovarono la necessità di dover mettere insieme delle cose e strumenti comuni, preservando tutto quello che restava sotto. Allora a me questo spirito, ripeto, Federalist Papers, queste cose qua, Madison, io ringrazio che ci sia chi in Italia lo vuole porre al centro della vera riflessione, senza stare lì a giudicare da un aggettivo in più o in meno del comunicato di oggi, che varrà poco. Il problema fondamentale è chi vince in Francia, lo sappiamo tutti, se vince la Macron o se vince Le Pen, poi chi vincerà in Germania, ma il problema è che a quel punto sarà tardi se non ne riflettiamo prima su alcune cose, per esempio il fiscal compact, che è centrale per la definizione della materia, del tipo di cooperazione che vogliamo, dello sviluppo di risorse comuni prima di pensare a leve comune aggiuntive. Io in questo sono d'accordo con Fabrini, penso che ci arriveremo più per confederazione che per federazione, ma la storia vedrà. Il rischio è che non ci arriviamo per niente se esplode tutto, se vincerà Le Pen, sappiamolo. Grazie al professor Fabrini, noi torniamo tra un minuto. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta Fratelli d'Italia, l'Italia alle mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò, sì! I conti della Belva. Eccoci, eccoci, il nostro imprenditore prediletto. Renato! Buongiorno. Tu sei, tu sei uno di quelli che aveva in mente, dai, sembrò quando diceva agli italiani voi volete solo il vino e le donne. Tu sei quel classico imprenditore. Il vino fa anche a meno, lo so bene. Sul resto... Io con Carlo Alberto faccio parte di quelli che dicono... Ho buttato via un sacco di soldi nella mia vita, il resto l'ho speso in macchine, moto e George donne. Best, George Best, George Best. Grande George Best, il padre di tutti questa filosofia. io risparmio sulle macchine, finisco sulle moto sicuramente. Ma di un po', dai, questa settimana ti hanno sgravato di un mucchio di oneri, tasse in meno. Io ho fatto una puntata sul punto ieri. Ci comandiamo a pagamenti della pubblica amministrazione? Ma il MEF dice che siamo scesi a 45 giorni. Ho sentito quelli di Asso Biomedica, le imprese delle forniture, le apparecchiature ospedaliere, dice, ma veramente noi febbraio 2017 risultano media di 148, media 148 giorni, ma, punte fino a 400. Lì, noi su quella cosa lì abbiamo fatto preso una decisione un sacco di anni fa, tantissimi anni fa, di non lavorare di più non col pubblico, fornire la pubblica amministrazione. Avevamo fatto una grossa fornitura, poi per essere pagati avevamo dovuto scendere a qualche compromesso e da allora abbiamo deciso di non farlo mai più. E quindi, ma viviamo lo stesso, insomma, cioè non... È un settore che perché voi esportate una quota elevatissima del fatturato, c'è chi lo scegli cosa fare nella vita, non è che ordina al dottore. Quindi invece senti, una cosa che volevo sottolineare è che ultimamente abbiamo i sindaci che sono diventati ormai super populisti, e quindi leggevo l'articolo anche stamattina sul Sole 24 Ore del Not in My Backyard, quindi di tutti 342 opere ferme perché non si vuole che vadano avanti, e la cosa divertente è che nella nostra zona c'è una fabbrica di biscotti che non mi sembra una cosa particolarmente impattante e inquinante, a meno che non abbiano paura che usino l'olio di palma, insomma, che si metteva cose di moda. Che la stanno già costruendo, cioè già quasi finita, però la comunità locale continua a dire no, ma dobbiamo vedere l'impatto della fabbrica all'interno del nostro territorio già devastato dall'industria, eccetera eccetera. Biscotti. E siccome tutte queste cose qua poi si uniscono al fatto che dicono che gli industriali non investono e non c'è lavoro, ogni tanto mi chiedo se la gente pensa che il lavoro cresca sugli alberi, perché a questo punto... giustamente, se manca il pane evitiamo di costruire le fabbriche di biscotti, come direbbe. Non essendo in Venezuela, perché allora... In Venezuela lo capisco, perché in Venezuela che non hai letto l'intervista a Francia Tà di un famosissimo capotista di abete italiano che ha richiesto perché era uscita dall'euro e se questo non avesse influenza sui salari reali, soprattutto quelli più bassi, ha risposto: chi cazzo se ne frega dei salari, tanto non lavora più nessuno in Italia, l'economista capottista che capotta con la testa. Il biscotto lo fate o non lo fate? Adesso per capire. Che mangino biscotti, direbbe Maria Antonietta. No, sai, non so perché. Allora, da vedere le foto sul giornale locale, la fabbrica è già praticamente a buon punto. A però buon sembra punto. Che non abbiano ancora la valutazione di impatto ambientale. Vabbè, adesso mi fai venire la curiosità, però approfondirò questo argomento e vediamo. Tu intanto non ti occupare della selezione del personale femminile e intanto abbracci a tutti cari ascoltatori, grazie ai compagni di Conti la Belva che come sempre hanno elevato la mia polemica altrimenti più bassa, ma comunque appuntamento per lunedì alle 8:20 con me Alessandro Milan, ad attenti a noi due, buona domenica.